Quindicesima stazione. La risurrezione di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro alle val del sole. Esse dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dell'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Signore, tu sei risorto. La tomba è vuota. Dopo tante sofferenze, ti sei mostrato alla madre, alle donne, ai discepoli, per tramutare il loro dolore in gioia. La sofferenza nella pace, la disperazione nella tranquillità. Tu hai voluto incontrare tutti coloro che hanno avuto fiducia, speranza e fede in te, e li hai guariti. Grazie, Gesù, per le parole «pace a voi». Non temete, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come io ho. Come hai guarito la fede e l'amore di Tommaso, Signore, guarisci la nostra fede e il nostro amore. Fa che possiamo vivere la fede pasquale rinnovata, risorta, viva. Gesù, donaci la grazia di poterti incontrare e riconoscerti dove sei e dove ci aspetti, nei tuoi santi misteri. Come hai fatto con i discepoli a Emmaus, insegna e nutri anche noi, in modo che si aprano i nostri occhi, si accenda la fede in noi e l'amore possa ardere nei nostri cuori. O Gesù, vieni incontro a ognuno di noi e donaci la pace e la gioia. Grazie, Gesù, per aver rafforzato la fede dei tuoi discepoli e dato loro il mandato di predicare il Vangelo ad ogni creatura. Signore, nutrici con la tua parola e il tuo amore e donaci la forza di testimoniare la tua viva presenza in mezzo a noi. Manda anche noi per far conoscere di più la tua parola, per annunciare la buona novella. Il mio Dio è vivo, io l'ho visto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.